Mix 24 di Giovanni Minoli. When I stay in the shoes now, I will hold the scene in a whole red map against the color boss time. Che cos'è il TTIP? No, io non so se sia un'iniziativa romana, ma essendo di Torino potrebbe essere qualsiasi cosa per me. Non ne ho idea, mi dispiace. Non lo conosco. È un progetto di accordo commerciale di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti. Secondo alcuni favorirà, faciliterà gli scambi, secondo altri invece daranno meno tutele per i consumatori e quindi meno controlli. Che ne pensi? Ci saranno meno tutele per i consumatori, non è positivo, bisognerà, visto che non lo conosco, non sono opinioni ancora, quindi. Andiamo un po' a tentativi, tanto a stare fermi non otteniamo niente, quindi direi intuitivamente parlando di farlo. Il libero scambio va bene in assoluto, però il trattato non lo conosco. Da quello che ne ho sentito dire, male, nel senso che mi sembrava di capire che fosse un sistema con cui si scendeva sotto certi standard qualitativi per certi prodotti, adeguandoci, omologando a quanto in vigore negli Stati Uniti. Dunque, sono poche opinioni, ma mi sembra ancora molto confuso sull'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Europa. Alberto Magnai, economista, docente di politica economica a Chieti, ha scritto il saggio L'Italia può farci. Ecco, professor Magnai, buongiorno. Ma questo accordo all'Italia conviene oppure no? Ma visto che è un accordo fra Europa e Stati Uniti, bisognerebbe chiedersi se conviene intanto all'Europa. No, certo, io dico a noi conviene. A noi come parte dell'Europa e come paese sostanzialmente no, e questo lo dicono gli stessi studi finanziati dalla Commissione Europea, che prevedono come benefici in termini di aumento del PIL nei prossimi anni cifre irrisorie. E perché lo si vuole firmare allora? Ma guardi, gli accordi di libero scambio sono sempre nell'interesse di chi li promuove fondamentalmente. Quindi lei dice sono negli interessi degli Stati Uniti prevalenti? Sì, questa è la valutazione che se ne può trarre, che deriva dal fatto che gli Stati Uniti, come ampiamente verificabile, stanno perdendo uno status di paese leader a livello mondiale a beneficio dei paesi emergenti. E cercano di recuperarlo così? E cercano di recuperarlo agganciandosi all'Europa per trasformarla in un mercato di sbocco per i loro prodotti. Ecco, però in teoria, scusi professore, pagare meno dazi significa libertà di circolazione delle merci, velocità nell'export, prezzi minori, insomma dov'è l'inghippo? Ma l'inghippo sostanzialmente è nel fatto che noi in questo gioco di aumento del commercio saremmo perdenti in termini netti, cioè acquisteremmo più cose noi dagli Stati Uniti di quante loro ne acquisterebbero da loro. Quindi un accordo che conviene solo agli americani, così com'è impostato? Ma allo stato attuale le valutazioni condotte dalla stessa Commissione Europea rivelano che l'esito sarebbe questo, quindi si sta un po' ripetendo la storia che si ripeté quando ci venne chiesto di entrare nell'Unione Monetaria. I benefici che venivano annunciati dalla stessa Commissione Europea erano irrisori nella stessa quantificazione degli studi finanziati dalla Commissione Europea, e la storia si sta ripetendo. E quindi questo è lo stesso rapporto, insomma, che, come sta dicendo, che ha avuto a che fare con l'ingresso nella moneta unica, secondo lei? Quello che vedo è che i meccanismi di comunicazione sono gli stessi, cioè si trasmettono ai cittadini informazioni che tendono ad accreditare come grandi vantaggi, dei vantaggi che in realtà sono minuscoli e incerti. E questa cosa mi preoccupa perché, come lei anche avrà visto dalle interviste che avete mandato in onda, in realtà i cittadini non ne sanno quasi nulla, gli stessi governanti non sono informati, perché un dato abbastanza inquietante del TTIP è che i negoziati si stanno svolgendo in una segretezza che secondo me non dovrebbe aver ragione di esistere. Certo. Sarebbe opportuno che ci fosse più trasparenza. Per questo motivo, peraltro, i tedeschi, come lei sa, si stanno opponendo, e non è un caso, perché le valutazioni indipendenti condotte per esempio da studiosi come Jeroen Capaldo, la Tufts University, con il modello delle Nazioni Unite, dimostrano che paradossalmente la Germania sarebbe proprio uno dei paesi più colpiti. E quindi non sarebbe un vantaggio neanche per l'euro? Guardi, qui il problema è che se qualsiasi cosa renda più fragile e più, come dire, interconnessa con l'economia statunitense, che non è particolarmente stabile, la nostra economia, mette in pericolo anche la stessa sopravvivenza dell'euro. Mi perdoni, lei sa, come tutti sappiamo, che sia eravamo in crisi da quando c'è stato lo shock Lehman. Se noi fossimo stati ancora più interconnessi agli Stati Uniti attraverso legami commerciali ancora più ampi e ancora più vincolanti, lo shock sarebbe stato più forte. Esattamente. Ecco, ma nel frattempo questo accordo, secondo lei, in particolare penalizza piccole e medie imprese italiane? Temo che le piccole e medie imprese sarebbero che penalizzate. Che poi sono il tessuto connettivo, insomma, dell'Italia economica. Però vedi, l'attenzione per le piccole e medie imprese purtroppo mi sa che in Italia ce l'abbiamo ormai solo io e lei, perché siamo inseriti in un contesto anche europeo che tutto sommato le penalizza. Certo, certo che questo, diciamo, metterle in competizione con le grandi multinazionali americane non aiuta. Di assoluta parità, non credo che le aiuti. Ecco, ma in un quadro come questo che dipinge lei, abbastanza nero, se lei fosse un produttore italiano, cosa farebbe per tutelarsi? Cosa farei? Intanto mi informerei, ma come lei dice è molto complesso, come abbiamo visto. E poi sa, il problema è questo: noi stiamo assistendo, ormai lo riconoscono tutti, a una crisi massiccia di domanda interna, e quindi è chiaro che i produttori italiani, almeno quelli che conosco io, si rivolgono ai mercati esteri. Il problema però è che bisogna cercare di diversificare, stringere un rapporto privilegiato ed esclusivo con gli Stati Uniti, che io non demonizzo assolutamente, ma non mi sembra la cosa migliore, non bisogna mai mettere tutte le uova nello stesso paniere. Certo, ecco, un'ultimissima domanda, professore, lei però ha scritto un saggio, l'Italia può farcela, da quello che ci dice mi sembra difficile farcela. L'Italia potrebbe farcela se riprendesse le leve della propria economia. Le faccio presente che in questo momento io non so chi stia negoziando per l'Italia il TTIP, sarebbe interessante saperlo e sarebbe interessante sapere quanto gli interessi del paese gli stanno a cuore. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS, e allora andiamo dentro la notizia. Mix 24, dentro la notizia. Ecco Mario, esattamente che cosa dice questo accordo? Cioè, che cos'è questo accordo esattamente? Dunque, intanto la sigla sciolta TTIP, TTIP se non vabbè, in italiano è Transatlantic Trade and Investment Partnership, no? Okay, quindi è un accordo di libero scambio, per sintetizzare, che prevede che cosa sostanzialmente? L'abbattimento di dazi, che è una cosa importante, anche se sono bassi, poi vedremo, in realtà l'abbattimento ha una massa critica molto forte, e quindi possibilità di importare e esportare molto più rapidamente bene, e facilmente i beni, partecipare agli appalti pubblici negli Stati Uniti, che è un'altra cosa molto importante, stabilire, qui la questione può diventare anche controversa come vedremo, la questione del Made in Europe, certo, e il Made in USA a questo punto. Ricordo che gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione per l'Europa, ogni giorno parliamo di una cifra di 2 miliardi di euro che viene portata dall'altra parte dell'Atlantico. Ora immaginate tutta questa massa applicata alla questione dei dazi. È chiaro che si tratta, no, di una massa critica molto grande. Bilaterale però. Sì, certo. Per l'Unione Europea le stime sono di circa 119-100 miliardi di benefici in termini di crescita superiore. Sì, il problema è chiaro che se la spalmi poi paese per paese le situazioni sono diverse, perché ancora l'Unione Europea, ahimè, non è integrata dal punto di vista fiscale, non appunto, c'è armonizzazione. Sappiamo, così vediamo però la è chiaro, il problema che provoca. Se vuoi una mia opinione, sì, è questa: ci sono ovviamente dei rischi, però vedo anche dei potenziali vantaggi. Sì, però sì, d'accordo, però abbiamo sentito dire da Bagnai che è una trattativa quasi segreta, sembra, non dico complottarda, ma insomma se ne sa poco o niente. Perché questa segretezza? Ma dov'è la ragione della segretezza? In realtà non si sa quasi neanche chi sta contrattando. In realtà non è segreta, nel senso che esistono documenti ufficiali accessibili a chiunque. L'informazione, i media ne parlano pochissimo e spesso male. Per fortuna noi siamo al gruppo Sole 24 Ore che ne parla, ma ti assicuro che sugli altri mezzi di comunicazione è difficile trovare qualcosa. Ecco, ma che cosa non ti convince di quello che ha detto Bagnai? Ci sono molti miti sbagliati sull'accordo. Non è il caso di Alberto, che ha seriamente affrontato il tema, secondo me. Ma per esempio si dice in giro che automaticamente gli standard qualitativi verranno abbassati. Infatti questo lo vedremo. Però non è così in realtà. Poi se leggi i testi base dell'accordo, insomma, che si sta discutendo è un po' diversa. Ecco, Pietrangelo, a te, dal tuo punto di vista, che cosa ti fa pensare questo accordo? Stiamo perdendo, è un accordo che ci fa perdere sovranità, che cosa? La sovranità l'abbiamo persa da un pezzo. Se ci fosse oggi un Enrico Mattei, sarebbe in galera. E questo non nel senso che uno come Enrico Mattei debba stare in galera, nel senso che la mancanza di sovranità impone un percorso di vera e propria criminalizzazione di chiunque sia fuori dal seminato di sudditanza. La storia di Gardini, per esempio, sì, che cosa ci racconta? Ci racconta che all'Italia è negata qualunque possibilità di costruire un'industria chimica. Noi abbiamo dei grandi vincoli, gruppi, infatti, sono in via di smantellamento tutti. Ecco, e questa è la controprova, perché accanto ai meccanismi di accordo imposti dagli Stati Uniti d'America all'Europa si accompagnano poi certe scelte dissennate, folli, che hanno portato all'impoverimento vero del continente europeo. Tant'è che anche le manovre di politica estera, non ultimo il disastro nella quarta sponda, nella cosiddetta quarta sponda del Mediterraneo, ha determinato le bombe migratorie su di noi e l'impossibilità di avere commercio e uno spazio in un territorio che è di nostra competenza. Certo, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Però sentiamo una voce di chi è favorevole a questo accordo, è quella del vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Ecco, nel Pacifico gli Stati Uniti l'hanno firmato questo accordo, lei cosa ne pensa? Che è una cosa molto positiva, perché insieme a quello che firmeremo nell'Atlantico darà il vita a un'area di libero scambio che non contiene un solo BRICS, ma tutti i paesi che condividono regole del gioco nell'apertura del mercato. Ecco, in Europa però non l'abbiamo ancora firmato, perché? Ma non l'abbiamo ancora firmato perché siamo partiti dopo, siamo partiti ecco, due, ma tre anni dopo. Non è che le trattative su questo partenariato, diciamo, vanno a rilento anche per altri motivi, no? Guardi, fino ad oggi sono andate in rilento, i motivi sono vari, la scarsa convinzione europea è una di questi, di un pezzo di Europa importante che vede in questo accordo una serie di politici, di pericoli a mio avviso ingiustificati. Senta, ma quali sono i vantaggi per l'Italia, diciamo l'Italia come sistema paese? Ma l'Italia è il paese che ne beneficerebbe di più, perché gli americani tengono tariffe innanzitutto molto alte su tutti i nostri settori di specializzazione, dal tessile, la pesticeria, le macchine, l'agroindustria, eccetera. Quindi anche solo dal punto di vista dei dazi, delle tariffe, delle tasse che vengono pagate dalle imprese quando entrano. E poi ovviamente anche da tutte dall'armonizzazione delle regole, perché siamo un paese di piccole e medie imprese, per cui è molto difficile produrre con standard doppi, quelli americani e quelli nostri. Ecco, però perché il presidente dell'ADUPSEF, Elio Lannutini, parla di accordo capestro, di un'intesa truffaldina che minaccia addirittura la legalità? Ma ecco, questo bisognerebbe chiederlo a lui. La legalità mi pare poco minacciata. Questo vabbè, accordo, misure capestro, diciamo, rispondiamo a quelle. Non lo so, non so quali. Cioè, lei non vede capestro nessun rischio? No, guardi, io non vedo nessuno dei rischi che normalmente gli oppositori del TTIP fanno balenare davanti alla gente, tipo gli OGM, i servizi pubblici, la cultura, eccetera, eccetera, eccetera, per una semplice ragione, che non sono nella negoziazione, ecco, e però, che vengono usati come spauracchio. Come spauracchio. Ecco, però le imprese italiane che sono medio-piccole, diciamo, grosso modo come sistema paese, non potrebbero trovarsi in difficoltà di fronte a giganti della produzione e della distribuzione come gli americani? Beh, è esattamente il contrario, nel senso che oggi i giganti, le multinazionali, già operano sulle due sponde dell'Atlantico e possono permettersi doppi standard, doppi costi di produzione, eccetera, eccetera. Chi non se lo può davvero permettere sono le piccole e medie imprese. Questa è la ragione per cui, per esempio, tutte le più importanti associazioni di piccole e medie imprese sono estremamente favorevoli all'accordo. Senta però, cosa dice quello che è stato un consigliere economico del presidente Renzi, Guerra, a proposito proprio del ruolo delle piccole e medie imprese in Italia? Il tema vero è che quando noi parliamo di medie e piccole aziende, parliamo rispetto alla media europea di microaziende. Le microaziende purtroppo in questo mondo non hanno più significato. Beh, un giudizio veramente tranciante, inquietante, eh? Cioè, sì. Tranciante. Guardi, io la penso un po' diversamente. Allora, la dimensione di impresa è un problema, in un mercato che è più grande, dove bisogna coprire diversi paesi, non si può per esempio esportare solo in Russia, come hanno fatto moltissime aziende di distretti industriali che poi si sono trovati in difficoltà, quindi bisogna diversificare. Quindi il problema c'è, ma le micro e piccole imprese italiane sono la straordinaria vivacità del tessuto vivacità economico. Ma sentito Guerra cosa dice sulla loro prospettiva di sopravvivenza? Perché zero, vanno fatto uguale crescere, a zero. Vanno fatto crescere, vanno fatte crescere. Se non crescono, ma se devono non crescere molto però per molto, arrivare certo. Quindi insomma non devono è proprio crescere, una... devono crescere molto, però attenzione, quelle che si specializzano in nicchie e quelle torto e noi quelle ce la fanno, tante, quelle ce la fanno, nella meccanica ce siamo la fanno, siamo d'accordo. Senta, ma non è che il governo Renzi, lo pensano in tanti, è un po' troppo sensibile alle richieste degli Stati Uniti? Ma proprio per niente, guardi, no. Il governo Renzi è molto sensibile alle richieste delle aziende italiane e europee, di quelle piccole in particolare, che vogliono questo accordo, perché gli Stati Uniti sono il nostro più importante mercato di esportazione, peraltro cresce quest'anno in maniera straordinaria, non solo grazie all'euro, perché cresciamo molto di più dei nostri partner noi europei. Però, noi però, Ministro, abbiamo approvato le sanzioni contro la Russia, che sono state fortemente volute dagli Stati Uniti, danneggiando la nostra industria alimentare, ma in cambio di che cosa? Perché poi in realtà le esportazioni americane verso la Russia aumentano e noi distruggiamo la nostra industria alimentare. Sono sanzioni da togliere, secondo lei? Secondo me no. Le sanzioni verso gli Stati Uniti in cambio in cambio della tutela del principio di integrità territoriale, che è un principio sacro del diritto internazionale molto importante se ai confini dell'Europa. Io non sono dell'idea che questo paese possa farsi dettare la politica internazionale da un calo delle esportazioni che oggi è uguale allo 0,75 del totale delle nostre esportazioni. Quindi vanno bene le sanzioni con la Russia, secondo me? Vanno bene finché la Russia, rispettando gli accordi di Minsk, non si rimette in un processo che io mi auguro sia il più veloce possibile, un processo con la comunità internazionale che sia costruttivo. Ma è un grande paese, lo ripeto, non si fa dettare la politica estera dallo 0,75% delle proprie esportazioni. Sì Mario, intanto questo accordo, come abbiamo sentito, il governo lo vuole perché aveva torto Bagnai, l'hai detto, ma c'è anche un punto debole in questo ragionamento di Calenda? Calenda ha una posizione molto filoatlantica, ovviamente. L'abbiamo visto. Però noi parliamo senza se e senza ma. Senza se e senza ma, molto tranchant. Però noi abbiamo visto che in realtà il commercio mondiale oggi ha una parte importante nei BRICS, cioè nei paesi emergenti, che tra l'altro sono anche in difficoltà. Per cui fare un accordo di questo tipo senza tener conto dello scenario totale dell'area del Mediterraneo, poi, che ripeto, comunque prima o poi risorgerà. Vabbè, quindi una posizione troppo radicale. Guarda, ci sono delle cose molto interessanti dette da Romano Prodi. In proposito, invito tutti a riflettere su questo, a non tagliare fuori i BRICS anche. Assolutamente. Comunque, in attesa di capire se questo accordo ci conviene oppure non ci conviene, c'è da dire che le aziende alimentari italiane sono già in sofferenza per le conseguenze delle sanzioni alla Russia, l'abbiamo detto, che hanno penalizzato il nostro comparto, non sarà tanto come dice Calenda, però l'hanno penalizzato in modo abbastanza consistente, come ci ha raccontato un produttore, Alberto Bricchio. Non è che i russi non mangiano più, si stanno rivolgendo al Sud America, dove importano il reggianito, il provolao, non rida ma è vero, e importano tutti i formaggi simili italiani. Cioè provolao meravigliavo praticamente. No, meravigliavo no, ma provolao fatto in Argentina e Brasile, ecco, che costano oltretutto molto meno. Dopo un anno il consumatore russo cambia gusto e si abitua. E se anche un domani, come tutti noi ci auguriamo, verranno tolte le sanzioni, sarà estremamente dura riconquistare un mercato che era solamente europeo e, devo dire, più che europeo, molto italiano. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, gli sms molti, uno per tutti. Gaetano Lopresti da Milano ci dice: il Dieselgate salta fuori in coincidenza con l'opposizione della Germania al trattato di libero scambio. Non è strano? Forse è una bella domanda, questa ne riassume tante. Insomma, si sommano certezze e incertezze. In più abbiamo sentito da Andrea Guerra, che è esperto e consigliere del Premier, che il tessuto industriale italiano, che è fatto di piccole e medie imprese, rischia di soccombere in questo accordo. Ci sono quelli però che con l'innovazione e la qualità cercano di resistere ad ogni costo di fronte all'accordo sono incerti nella valutazione. Carolina Vergnano, azionista responsabile del gruppo del Caffè Vergnano, faccio anche lei questa stessa domanda. Ecco, ci conviene o no questo accordo per i produttori italiani? Io non ho una risposta, posso dire che ho tanti dubbi, ho timori soprattutto per le aziende della nostra taglia, perché questi accordi generalmente favoriscono le grandi multinazionali e non tengono sempre in considerazione il tessuto delle piccole e medie aziende italiane, che comunque oggi sono quelle che fanno la differenza e rendono l'Italia, sono sistema Italia poi, ecco. Teme che possano arrivare merci di bassa qualità anche? Questo non lo so, sicuramente apre le porte a qualcosa che oggi non c'è e che non è detto che risponda agli stessi standard. Noi abbiamo degli standard molto elevati, noi in azienda lo viviamo tutti i giorni con il nostro responsabile qualità che lotta, e giustamente per una giusta causa, ho il timore che questa cosa possa abbassare un po' la soglia di attenzione. Perché la qualità rischia di non essere difesa? Possono esserci delle clausole. Esatto, forse un po' diverse rispetto a quelle che noi oggi stiamo rispettando, e quindi questa cosa potrebbe... Che possono quindi abbassare il livello della qualità. Cambiare i canoni di valutazione. Senta intanto che cosa dice Salvini a proposito di questo accordo. Sapete cosa ha votato il Parlamento di Strasburgo col voto della Lega contro? Il trattato di libero scambio con gli Stati Uniti. Sapete che cosa comporta questo per i consumatori italiani? Che ad esempio negli Stati Uniti sono permessi 82 pesticidi in agricoltura che sono vietati in Europa. E io non voglio che sulla tavola di mio figlio arrivi qualcosa coltivato con un pesticida, con l'ormone o con l'animale clonato, perché questo è il business. E questo è il rischio che temete di correre. Adesso naturalmente questa è una polemica politica, ma diciamo nella sostanza... Io non voglio assolutamente entrare in un tema politico, io ne faccio una questione alimentare e soprattutto verso il consumatore. Io so che la nostra azienda, per poter mettere i prodotti sullo scaffale, segue tutto un processo non solo di certificazioni, ma deve adeguarsi a degli standard qualitativi che mi auguro siano gli stessi richiesti alle aziende americane che verranno in Italia e che porteranno i loro prodotti. E quindi in qualche modo Salvini drammatizza un rischio che però potrebbe esserci, diciamo. Ecco, mentre è arrivata intanto la notizia che Starbucks, dopo anni di annunci, questa volta arriverà davvero in Italia. Questa è la concorrenza nel vostro settore. Avete paura? Io no, non ho paura. Perché? Io credo che Starbucks risponda a una tipologia di consumo diversa da quella che oggi offrono i produttori italiani nelle loro caffetterie o nei loro bar. Oggi Starbucks è un'alternativa di consumo sia a livello di luogo ma anche di offerta di prodotti caffè. Sarà una rivoluzione che in qualche modo è a base del caffè, nella patria del caffè. Aggiungerà una modalità di consumo, ma io non temo una cannibalizzazione del vero espresso italiano servito dai torrefattori italiani nei bar italiani. Ecco, ma una rivoluzione targata USA. Noi italiani su questo segmento di mercato non eravamo in grado di farla, voi? Un po', e questo è un po' un rammarico, perché un americano ci è riuscito. Il Starbucks ha creato una tipologia di consumo diversa, togliendo anche un po' dell'autenticità dell'espresso italiano, della caffetteria all'italiana. Certo è che vedere che Starbucks è tra le prime e più grandi torrefazioni al mondo, un pochino di rimpianto potevate pensarci anche voi. Noi siamo tanto piccoli, magari qualcuno un po' più grande. Dico voi, insomma, quelli. Voi avete già avuto però un confronto molto duro con l'Anespresso. Ecco, ma su che cosa esattamente? Ma noi abbiamo lanciato la prima capsula compatibile Nespresso nel mercato italiano. Quindi noi la nostra capsula si adatta e può essere utilizzata nelle macchine di Nespresso, e c'è stato un po' uno scontro nei tribunali che poi avete vinto? Diciamo che ci siamo messi poi d'accordo. E oggi le nostre capsule sono il sistema più grande in Italia all'interno delle compatibili, e quindi diciamo che per la nostra piccola realtà torinese è stato un grandissimo successo. Senta, mentre Starbucks sbarca in Italia, voi siete uno dei primi gruppi di caffè che ha lanciato una propria catena di caffetterie, quindi in qualche modo siete concorrenti sullo stesso piano, in piccolo col grande. Starbucks, No, noi in realtà siamo, creiamo una caffetteria dallo spirito molto autentico, quindi è la vera caffetteria all'italiana. Serviamo bevande principalmente a base di espresso, quindi non mischiamo con tante panne e altro, ma facciamo il marocchino, il cappuccino, l'espresso macchiato. Cerchiamo di essere un po' più autentici anche nella nostra offerta. Oggi ne abbiamo 40 in Italia e quasi 50 nel mondo. Non abbiamo i numeri di Starbucks, ma però insomma siete concorrenti sulla qualità nel loro stesso segmento di mercato, è questo? Sì, esatto. Ecco, vabbè, bravi, vedremo Starbucks se prende o no, anche bravi. McDonald's sembrava che prendesse, poi ha preso, ma insomma non così tanto come sembrava, nei settori che non siano del cibo, non è così facile, no, mi pare, e quindi Mario, no, insomma, non è detto, insomma. No, le rivoluzioni sono rivoluzioni che durano un po', ma poi non, insomma, noi mangiamo la pasta. Ecco, insomma, come è capitato negli anni 80, negli anni 80 erano gli anni dei paninari, sembrava tutto McDonald's, e poi invece non è andata così. Se facciamo un salto indietro. Vieni qui, dai, che ti porti in un posto troppo giusto. Milano importa per prima in Italia un nuovo modo di mangiare proveniente dagli Stati Uniti. Nel centro della città sorgono catene di fast food in cui si affollano ragazzi e ragazze entusiasti per i panini ripieni di hamburger e per i cartocci di patate fritte sommerse dal ketchup. Fast food diventano luoghi di aggregazione per i cosiddetti paninari, che si identificano anche per alcuni ricorrenti capi firmati che esibiscono come uniformi. Diciamo, queste qui le scarpe sono i fry, sono... Vabbè, insomma, sembrava la rivoluzione, Pietrangelo, e poi invece si è spenta in fretta. Perché? Perché gli anni Ottanta avevano Bettino Craxi, e con Bettino Craxi c'era un'identità più che un marchio, era l'Italia. Oggi tutto questo non c'è più, non solo perché non c'è un Craxi, ma perché è venuta meno l'Italia. Però Milano ritorna di nuovo a essere centrale in qualche modo anche nell'immaginario di Renzi, vero? Sì, questo. Vabbè. Sì. No, mi veniva in mente, insomma, che io non sono mai stato paninaro, e il motivo c'era, citando Flaiano, cioè, e non me lo potevo permettere. Vabbè, ma guarda, senti, che i panini costavano poco, non erano come i pranzi altolocati dei comunisti. Era tutti in look, lascia stare. Vabbè, chiudiamo con una bella canzone. Sì, dai. Le caffè e mai niente ci fanno sapere, luce puzza a me famo sanno tutta quanta, invece ci aiutano, ci butto le caffè, una tazzone, le caffè, la sigaretta con papà in un padè, sai se ne palazzo fanno cose pazze, ci girano, ci votano, ci vengono i dati. Mix 24. Tante reazioni dei nostri ascoltatori. Federico Arcieri ci dice: il problema in realtà è mal posto, la vera trappola è costituita dai vincoli normativi. Naturalmente è un po' quello che dicevamo. Poi se si vanno, dice Andrea da Firenze, invece se si vanno a eliminare i dazi, l'esportazione vola, in quanto c'è una grande domanda, una grande richiesta d'Italia, più che il libero scambio, scrive Marco, si tratta di cessione di sovranità nazionale degli stati, come diceva Pietrangelo. Insomma, opinioni molto contrastanti, interessanti. E ce la fai sentire la tua canzone? Canzone. Stamattina? Perché ci sono incontri che sembrano esami e capitano in luoghi, anzi, in un unico luogo che è l'esilio, e l'esame diventa un tormento, prende la mente, sono velocità che poi divorano ogni cosa e tutto va a precipitare come biglie che sbattono sul vetro, insomma... Ci si salva soltanto quando, con la fortuna dello scemo, arrivano le risposte. Allora è successo che stamattina al centralino è squillato, proprio uno squillo imperioso, era niente meno che Orlando Paladino. E Orlando Paladino ha voluto questa canzone, appunto l'esilio, con una dedica a Chicca. E il messaggio: lo prepariamo insieme quest'esame? Chicca. chicca, chicca, oggi Francesco tocca a chicca, vabbè, ma cazzo, insomma, è una cosa. Senti, ce l'hai una rapida bolla cattivissima prima di introdurre il nostro sì, nuovo ospite? No, la facciamo con il nostro ospite, dai, ci divertiamo. Allora, wow, Bill Conti, e io ho un grande dilemma, perché mi è stato introiettato dalla lettura dei giornali stamattina, ma Silvio va, sì o no, a Bologna da Salvini? Perché? Questo è un problema. Se va da Salvini, comanda Salvini. Allora, se va da Salvini, comanda Salvini o ci mette il cappello? O se non va, si nota per la sua assenza e manda una delegazione, ma sembra un'annessione dei poveri delegati azzurri di Forza Italia. Andare o non andare? È un dilemma amletico o è qualcosa di politico? Ragazzi, io amletico o politico? Non lo so. No, è cinematografico, decide Moretti. Moretti non lo so, ma il nostro ospite ha un'opinione. Di cinematografico è capitata una cosa interessante questi giorni, anche nel caso della Gambirasio, durante il processo Bossetti. Sentiamo un attimo. Da una parte la difesa di Massimo Bossetti, dall'altra il comandante del RIS di Parma, Gianpietro Lago. Va in scena lo scontro, durissimo, sul video che, secondo l'accusa, mostra il furgone dell'imputato che passa 6 volte davanti alla palestra di Iara, 45 minuti prima che lei uscisse, per poi essere rapita e uccisa. I carabinieri del ROS, nel descrivere il percorso fatto dal presunto assassino il 26 novembre 2010, riportano i fotogrammi registrati da 4 telecamere di sorveglianza. Da qui la battaglia in aula fra l'avvocato di Massimo Bossetti e il colonnello, che ha ammesso: il video è stato montato da RIS in accordo con la procura di Bergamo per soddisfare esigenze comunicative. Ecco, siamo veramente a un cambio scena completo. Luca Telese, che ha scoperto, buongiorno. Ciao. Che ha scoperto il filmato, che ha scoperto soprattutto che il filmato è prodotto dai RIS, cioè una specie di fiction costruita ad arte da Tempesta e Media, così? Sì, questa è la storia di una prova strana ed è interessante anche per chi non segue la cronaca nera, perché è un caso di scuola, cioè quello che sta accadendo in questo processo è un po' l'evoluzione del bisogno delle inchieste di diventare più spettacolari, di avere una rappresentazione scenica che va proprio solo in onda sui media. Ecco, per ma perché giornali. Tu in realtà cosa hai scoperto, ecco, esattamente? Per allora riassumere. Accadde questo, sei mesi fa, dopo che era uscito questo video, molti giornalisti dissero che era strano, cioè si vedevano delle immagini a notte, ma chi ci dice che è veramente quel furgone? Perché se fosse così, certo, come dicevano loro, il predatore che gira 6 volte intorno alla preda, come avete ben ricostruito, sarebbe stato inquietante, forse una prova quasi certa. E allora andammo a vedere fotogramma per fotogramma e scoprimmo che in realtà questo furgone, secondo noi, e soprattutto venne l'avvocato della difesa a dirlo, quindi c'è uno spezzone in Matrix. Ma che cosa ti ha insospettito? Ecco che questo furgone era riconoscibile in solo 2 occasioni e tutti gli altri erano dei furgoni indistinguibili, semplicemente che si vedevano da lontano, in alcuni casi solo dei fari. Bene, passano 6 mesi, il TAR lo ti scava nella testa, arrivo all'udienza di tribunale mercoledì scorso, in cui finalmente c'è questo controinterrogatorio molto americano, molto cinematografico, che avete descritto, e lì mi sono cascate le braccia quando sento il colonnello Lago, che è incalzato dall'avvocato, e dice: quali sono sicuramente per voi? Lui dice: beh, 2 sono sicuramente, gli altri sicuramente non sono, non abbiamo nessun elemento per dirlo. E allora l'avvocato dice: ma perché li avete messi dentro quel filmato allora? E il colonnello De Ris risponde: su pressione mediatica, su richiesta della procura, abbiamo fatto una cosa che è stata fatta solo per orientare i media. Cioè, e questo sostanzialmente mi ha hanno costruito una fiction da dare in pasto ai media, perché non le indagini non andavano tanto avanti. Com'è? Perché non c'era persuasione nell'opinione pubblica, non c'era certezza della tesi. Allora la procura dice: aiutatemi a dimostrarlo. E infatti qualcuno che diciamo ha raccolto le voci dei RIS, loro dicono: ma noi abbiamo il diritto di dimostrare la nostra tesi accusatoria. Io dico: sì, ma non con un montaggio tarocco, perché se io ti dico che è la macchina di Minoli e poi non so che non è la macchina di Minoli, sto facendo un tarocco, anche se è veramente una macchina come la sua, una mini come la sua. Ma scusa, e i cronisti seguivano il caso? Nessuno ha avuto qualche dubbio? Allora, qui c'è una cosa, sono tanti cronisti che hanno avuto dei dubbi. Cito per esempio Sulas, su Oggi, un giornalista vecchio stile come piace a noi, che col blocchetto segna rovina tutto, e ha fatto un pezzo, una copertina di oggi molto problematica. Però qui c'è una cosa interessante dal punto di vista comunicativo, quindi so che ti interessa, cioè è una battaglia di comunicazione, certo. E la procura ha detto: noi il processo non lo facciamo vedere, non ci sarà la televisione, e quindi se ci sono magagne, secondo me, mia interpretazione, non si vedrà. E allora è riemersa fuori la forza del taccuino, perché se ti segui tre giorni e nove ore di deposizione, il colonnello era molto compiaciuto, era molto rassicurato, e quindi magari ha detto una cosa che forse non avrebbe dovuto dire, o meglio, se è vera è grave, se l'ha detta perché gli è sfuggita è ancora più grave. Ecco, ma adesso cosa capita allora? Mentana ieri ha fatto un titolo, ha detto quel pasticciaccio brutto dei RIS, e qualcuno dice che questa cosa potrebbe addirittura gettare un'ombra sul processo. Io lo sto seguendo con molta attenzione, stanotte prendo, domani notte prendo la macchina e vado là, e accade che traballa. C'è un'unica prova considerata certa, il DNA, traballa pure quella, e quindi questo povero muratore, che era il colpevole ideale, cioè proprio una faccia da colpevole, diciamo la verità, e aveva tante cose poco raccomandabili, magari ne esce fuori. Pietrangelo? No, io al di là di questa storia che sinceramente mi colpisce nella ricostruzione che sta facendo Luca Telese, resta però un fatto. Come mai non c'è più la possibilità di beccare l'assassino attraverso il metodo antico, che non necessitava certo di ricerche scientifiche, di analisi, era sufficiente dall'induzione all'intuizione, che era affidata ai poliziotti? Cioè, perché non esiste più una figura come il commissario Maigret? Bravo, questo è il problema, lo posso dire esattamente perché la tecnologia induce pigrizia, me ne accorgo seguendo la tecnologia induce pigrizia, è verissimo, fare l'inchiesta vecchio stile alla Maigret si delega tutto alla tecnologia, comporta uno sforzo enorme. Invece vedo che loro lavorano proprio anche su altre cose, tipo avvincenti, tipo le celle telefoniche, lavorano a strascico, cioè pigliamo tutti quelli che erano lì alle 16, prendiamo tutti quelli che hanno precedentemente lì, e deve saltare fuori il colpevole. E invece ti serve lo scatto in cui capisci. Paolo Liguori, la prima puntata che facemmo su questa cosa, disse una frase che potrebbe mi rimbalza la testa, cioè disse: guardate, il DNA può essere una prova, però senza una storia non può esserci mai un colpevole. Cioè dice, l'inquirente ha il dovere di capire cosa è successo. Certo. È stato un raptus, è un pedofilo, è una cosa, una pulsione, dico in questo caso, ma in tanti altri. Invece uno dice, c'ho la prova tecnica, c'ho il video, c'ho la cosa suggestiva che mi seduce il pubblico, è il colpevole, è il fatto. Mario, no, tu l'hai fatto tanto. Ma sai, secondo me, allora, io sono un grande lettore di classici. Lui è il vero nerista. Polizieschi, no, nerista no, però insomma, ho seguito. La cosa che mi fa impressione, volevo un'opinione da Luca, è questa necessità di avere la fiction dentro la realtà. Questa è una cosa che io assolutamente trovo, sì, incredibile. Sì, ma perché? Ti sei chiesto e dato una risposta? Perché è la benzina che sta muovendo tutti. Perché tutti i giornali avevano bisogno di mandare quella foto di quella ragazza, quindi anche tutti i programmi nostra. E quando tu hai creato una ondata ansiogena nel mondo, ci sono più, nell'opinione sono tutti pubblica mediatici. Certo, e non hai più filtri, poi come fai? È come se facessi la fiction e mandassi solo la prima puntata. Devi mandare la puntata in cui filmi l'arresto del colpevole. Però, allora, ergo, questo mina fortemente la credibilità di tutta l'indagine. Allora, ma ve ne dico un'altra a proposito di documenti video. C'è un altro documento video che qualcuno ha mandato in integrale, 11 minuti, è il video dell'arresto. La cosa divertente di questo video, clamorosa, anche imbarazzante, in aula quelli che l'hanno prodotto hanno balbettato, è: ma scusate, voi, è un dettaglio, no? Ma perché prendete Bossetti e poi vi fermate 20 minuti? Nel video, che è integrale, non montato, si vede, perché siccome l'arresto deve essere fatto mediaticamente in modo girato congiunto da tre punti di vista, e poi in modo congiunto carabinieri polizia, c'era una cosa grottesca, cioè la macchina della polizia in ritardo e c'era il superiore dei carabinieri faceva il casting, allora tu mettiti vicino, alla fine sti carabinieri stavano da 11 minuti e dico: oh, ma ce ne andiamo? No, serve pure il poliziotto. Vorrei ricordarvi un episodio. Quando viene arrestata la mamma del piccolino ucciso a Santa Croce Camerina in Sicilia, che avete tutti ben presente com'è quella signora, un esserino indifeso, spaventato, per arrestarla c'è tutta una mobilitazione di elicotteri, di automobili, di camionette e ovviamente coinvolgendo tutte le forze di polizia affinché si creasse la scena. Per cui, come dice Luca, non solo la tecnologia induce pigrizia, ma la fiction ha preso il sopravvento sulla realtà processuale. Come su i talk tutto. Hanno distrutto la politica, la fiction ha distrutto la cronaca. No, scusa, come qui a Roma con Mafia Capitale, questa è mafia. Ah, su 800024. È un video di arresto quello di Carminati, fantastico. 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Genova invasa dall'acqua, paura nella città con le persone rifugiate nei piani alti. Pesanti danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto sul versante ionico della Calabria. La Sardegna colpita, quasi affondata da una bomba meteo di eccezionale potenza, ovunque fiumi di acqua e fango. Sono due le vittime del violento nubifragio che si è abbattuto sul Sannio. Benevento, il capoluogo della provincia, non è uscito indenne. Diverse zone della città sono impraticabili. Nelle strade, un mare di fango. Acqua e fango, morte e disastri, tanti e spesso prevedibili. Nella memoria però tutti abbiamo quel 4 novembre del 66 a Firenze, un disastro naturale che diventa una gara di solidarietà. Buonasera. Una eccezionale ondata di maltempo sta flagellando tre quarti del nostro paese. E l'aspetto più drammatico della situazione è costituito dall'isolamento di Firenze. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città. Avete visto molte facce di cui non sapete il nome. Non sarebbe stato possibile identificarli tutti. Questi ragazzi andranno via come sono venuti e non sarà neppure possibile ringraziarli. Hey Jude, don't make it by... Era Richard Burton che parlava degli angeli del fango. Ecco, a proposito di amore per l'arte, Luigi Capello, perché ha creato Love Italy? Allora, Love Italy è un'associazione senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di raccogliere fondi attraverso queste nuove piattaforme che si chiamano crowdfunding, dove ogni cittadino può mettere anche piccolissime donazioni per ristrutturare opere d'arte. Dove trova gli angeli che finanziano il suo crowdfunding? Ci auguriamo tanti cittadini italiani, turisti, insomma cittadini internazionali che vengono ad ammirare le nostre bellezze, per cui noi ci auguriamo un giorno che tutti questi signori, 50 milioni di turisti, che possano mettere un euro magari in ogni visita in Italia per dare questa forza finanziaria e poter ristrutturare una serie di opere che mettiamo a disposizione. Firenze, 4 novembre del 66, l'alluvione. Emozioni, misteri, memoria, qui a Mix 24, il giallo della storia. Mix 24. Pietraggio Salamino. A proposito di acqua, ancora acqua. L'abbiamo sentita prima, quell'acqua, il fango, emergenza Firenze, acqua tutto. Questa volta emergenza acqua a Messina e anche a Gela. Non si può dire cosa siamo. Siamo già a novembre, non si può dire che sia periodo di siccità, però non c'è acqua. E dove si trovano Gela e Messina? I Contura Sicilia. Ecco, si trovano nella bella Sicilia, dove non solo l'autostrada Palermo-Catania è interrotta da più di 7 mesi, dove non solo su 4 strade 3 sono sfasciate, dove non solo le frane arrivano a Tinchite. E proprio nella città dove dovrebbe sorgere il famoso ponte di Messina non c'è l'acqua, quindi non so come si fa ad impastare il cemento se manca l'acqua, non so dove si trova il bricciolino e come si possa combinare. Insomma, questa notizia, che già è vecchia di più di una settimana, ha stentato ad arrivare nei giornali. Comunque, l'acqua non c'è ancora e tutto capita in Sicilia, che è la terra che non interessa a nessuno. Nessuno. A noi abbastanza perché ci sono io che rompo le scatole. Vuoi sottolineare questo? Sempre il solito piemontese. Ma allora, la questione qual è? Che ogni rattoppo che hanno fatto salta come un tappo, come se fosse champagne a Gela, per dire l'acqua si va a buttare direttamente a mare. E il governo regionale non sa fare una beata mentola ho detto mentola, che siamo in orario giusto. Alla faccia della cosiddetta autonomia, che è successo? Certo, perché da Roma hanno dovuto mandare una squadra speciale della protezione civile. E io cosa posso dire? Vergogna! È incredibile, saranno più di 2000 anni che sono stati inventati gli acquedotti, eppure in Sicilia non funzionano. Quindi ho fatto manca l'acqua ed è tornato il mercato nero delle damigiane. Vergogna! A Gela, che in fondo è la città del Rosario Crocetta, che è un mischino. Giusto ieri anche ha potuto, dopo terzo. Anche qual è? Fiorello. Gela, no. Non è Gela. No, Fiorello Querella, se gli dici. Ah, no, scusami. È di Augusto e pure di Leto Iardi. Ho visto che hanno invocato il suo intervento. Sì, è di Augusto. Va bene. Insomma, è la città del Rosario Crocetta, dove per la quarta volta in 3 anni ha fatto un nuovo governo regionale. E sapete come ha brindato questo suo nuovo governo? Come? Con l'acqua Perrier. Sforna clienti d'eccezione. Mi sa che c'è Fabio. Si parte la favola. C'era una volta un re. C'è Fabio che tutti i giorni ci chiede che fine ha fatto Sara Tardelli. È in televisione. È cosa importante. Fabio, fatene una ragione. Però forse qualche giorno arriverà. Forse un giorno arriverà. Va facciamo bene, un appello intanto, a Sara. Intanto, no, per chiudere il discorso, sì. Mario. Volevo chiarire, provare a far luce in una cosa che è abbastanza complicata in realtà. Allora, Luca, diciamo che gli inquirenti, gli investigatori hanno fatto un riassunto e la cosa a molti appare normale. Lo è o no? Perché francamente a me no, però sai, magari io sono un po' ingenuo, sono un ragazzo di campagna. Assolutamente no, sarebbe come se tu vai dall'ortolano e ti dice ti vendo una cassetta di arance, bellissime arance siciliane, e invece solo 2 sono siciliane e 10 vengono dal Marocco. Allora non me le puoi vendere come arance siciliane. La cosa che colpisce è che lì c'era un marchio che dovrebbe essere il marchio di qualità, come quello dei prosciutti, come quello, che ne so, del DOC, del DOP. Cioè il marchio è Carabinieri. Se io leggo Carabinieri, no, ho il diritto di dubitare sempre come giornalista, ma non posso dubitare che mi stiano dicendo che no, è vero. Dei Carabinieri poi no. Sì, anche io sono molto sorpreso, devo dire. Io voglio molto bene, fra l'altro, ai Carabinieri. Penso che questa sia stata loro cosa indotta da una precipitazione. Molto bene te in questa fase. Vabbè, veramente. Cioè, confronti professionali, diciamo. Ma poi perché fare facciamo il nostro mestiere? Dicevo questa cosa bella, la televisione oscurata e torna il taquino. E questo a noi piace molto, seguirsi le cose. E infatti sto vedendo la Manuela. Sì, siamo a Manuela. Torna la forza del taquino. Beh, non è poco, C'è un'ultima bolla, Mario? Sì, vai, dai, una cosa high tech. Wow. Questo è un classico, è Doobie Brothers, Long Train Running. Te lo ricordi questo, Telese? Madonna, come siete rocchettoni stamattina. Io vedo qua gente che balla in regia, poi persone poco raccomandabili. Voi totalmente. Vabbè, fatti. Parliamo di Tesla. Che quindi auto elettriche e cavalli, perché Elon Musk, che è il fondatore di Tesla, di SpaceX, di tutte imprese molto avveniristiche, ha detto che l'auto tra 15-20 anni sarà un po' come oggi i cavalli, una cosa solo per appassionati e per ricchi. Forse ha ragione. Quello che mi stupisce è che Tesla ha diciamo dei target per ora modesti, 50.000 auto vendute eccetera, una perdita considerevole. Però capita, insomma, parecchi miliardi di dollari, un po' meno diciamo di quanto ha General Motors, che però ha ricavi 38 volte superiori a Tesla. Quindi e guadagna 5 miliardi di dollari. Quindi c'è da chiedersi come si fanno questi bilanci. No, c'è da chiedersi come si fanno le previsioni sul futuro per fare i bilanci per fare i bilanci attuali. Cioè, secondo me il mercato va bene che faccia proiezioni future, però ricordiamoci sempre che gli scambi azionari si svolgono oggi. Vabbè Luca, noi seguiremo il tuo lavoro, perché ti cercheremo di capire come va a finire questa vicenda, che però è una vicenda molto significativa del nostro tempo. Potrebbe capitare a chiunque di noi. Esatto. E per finire, Giusy Ferreri, Novembre. Ho difeso le mie scelte, io ho creduto nelle attese, io ho saputo dovuto dire spesso di no. Con te non ci riuscivo. Oh. Indossato le calze.